giornale radio del Friuli Venezia Giulia. PIL regionale aumenterà dello 0,7 e non dello 0,9%. Confindustria rivede le stime al ribasso a causa del calo dei consumi e dell'andamento del settore manifatturiero. Le pagelle di Agenas alle strutture ospedaliere della regione. Il sistema complessivamente rispetta gli standard, ma non mancano le criticità in alcuni settori. Farmacisti sempre più in difficoltà, aumentano le funzioni ma sul mercato non si trovano giovani laureati. Secondo le stime in regione mancano oltre 100 professionisti. Annunciati 44 licenziamenti tra i civili impiegati nella base di Aviano. Oggi a Pordenone la conferenza stampa dei sindacati che annunciano le iniziative in programma. Sanità e infrastrutture al centro del Question Time di questa mattina in Consiglio regionale. Nel pomeriggio è previsto un dibattito sul fine vita a seguito di una mozione delle opposizioni. Predire con sufficiente anticipo gli eventi meteorologici estremi e la nuova sfida di chi si occupa di previsioni del tempo. Ne abbiamo parlato questa mattina. Buongiorno Regione. Esercitazione congiunta a Gorizia con Vigili del Fuoco, 118, Croce Rossa, Croce Verde e Sogit. Simulate due tipologie di incidente con feriti sulla strada e ingabbiati in un'automobile. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Daniele Lettigi. I consumi dunque calano rispetto alle attese, mentre il comparto manufatturiero arranca. Due fattori che hanno portato Confindustria a rivedere al ribasso le previsioni sul PIL regionale. Il prodotto interno lordo del Friuli Venezia Giulia aumenterà dello 0,7% nel 2024 rispetto allo 0,9% stimato lo scorso luglio e dello 0,6% il prossimo, 0,8% la stima di tre mesi fa. Lo si legge nell'analisi dell'ufficio studi di Confindustria Udine su dati Prometeia aggiornati a ottobre 2024. La revisione al ribasso rispetto alle stime di tre mesi fa è imputabile all'andamento dei consumi del comparto manifatturiero che risultano inferiori alle attese. Si tratta comunque di un ritmo di crescita annuo del PIL più alto di quello registrato dalla nostra regione in media nei due decenni pre-pandemia. I consumi delle famiglie dovrebbero espandersi nel 2024 ad un ritmo inferiore a quello del PIL, più 0,4%, e di poco superiore, più 0,7%, nel 2025, favoriti dal rafforzamento del mercato del lavoro e dall'incremento delle retribuzioni, ma frenati dell'aumento della propensione al risparmio. Alla crescita il prossimo anno contribuirà anche la ripresa del comparto industriale, l'aumento dei prestiti favoriti dal taglio dei tassi. Le esportazioni dopo il crollo dello scorso anno, imputabile prevalentemente alla cantieristica, oltre che dall'andamento deludente della domanda tedesca e del commercio mondiale, riprenderebbero un percorso espansivo superiore a quello del commercio. Il mercato del lavoro resta solido, ma è prevista una decelerazione anche per il ridimensionamento del comparto edilizio. Il tasso di occupazione è ai massimi e in ulteriore crescita. Quello di disoccupazione è previsto attestarsi al 4,4% nel 2024. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Le strutture ospedaliere regionali promosse da Agenas, ma ci sono diverse criticità. Vediamo quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali diffuso ieri. Sono 20 le strutture pubbliche private del Friuli Venezia Giulia analizzate per qualità e tempi di risposta da parte della Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Si tratta di una sorta di osservatorio permanente sull'assistenza ospedaliera che a livello nazionale ha evidenziato, per esempio, che per numero di ricoveri nel 2023 si è tornati per la prima volta ai numeri pre-pandemia, sia per i ricoveri urgenti che per quelli programmati e diurni. Per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia, le strutture sanitarie sono state promosse nel complesso, anche se non mancano potenziali criticità che saranno oggetto di audit per vedere eventuali debolezze e azioni di miglioramento. Un audit, per esempio, è in corso sul tasso di mortalità a 30 giorni dopo gli interventi di riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale. Il tasso medio nazionale è di 1,49, a Trieste è doppio, 3,08. Proviamo a vedere gli indicatori più importanti quando si parla di efficacia clinica, mortalità a 30 giorni per patologie specifiche. Prendiamo l'infarto miocardico acuto, se la media grezza nazionale è 7,13, Trieste con 14,8. Palatinare e Maggiore, va un po' meglio, 6,37. Udine anche 6,38. Pordenone e Gorizia invece sono sopra la media nazionale, rispettivamente all'8,40 e 8,18. Altro elemento è la frattura al collo del femore, l'intervento chirurgico entro le 48 ore dall'accesso nella struttura di ricovero. Se la media nazionale è 56,27, Trieste è sotto la media con il 49% di persone che ottengono l'intervento entro i parametri. Peggio va a Udine col 31%, bene invece Pordenone col 64%, nella media Gorizia e Monfalcone col 56%. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Sul mercato non mancano solo medici e infermieri, le farmacie svolgono sempre più funzioni, dagli esami di base alle prenotazioni, ma ultimamente stentano a trovare personale. A mancare in regione oltre un centinaio di farmacisti, secondo le ultime stime degli ordini professionali, in allarme per la carenza sempre più marcata. Il problema è nazionale ed esploso dopo il Covid, con l'aumento della richiesta di collaboratori dovuto alla nuova impostazione della farmacia, oggi sempre più orientata verso nuovi servizi a supporto del sistema sanitario regionale e sempre più richiesti dai cittadini. Servizi che spaziano dai tamponi ai vaccini, agli esami del sangue, elettrocardiogrammi, oltre alle preparazioni galeniche, e che richiedono una integrazione al personale che però non si trova. Le facoltà di farmacia, in più, sfornano meno laureati di quelli che servono, negli ultimi anni dimezzati in Italia come in regione. Come già accade per altre professioni sanitarie, il lavoro del farmacista, nonostante non conosca disoccupazione, è diventato poco attrattivo per i giovani. La conferma nelle parole di una giovane neolaureata. Dal punto di vista personale, visto che mi sono laureata poco più di un anno fa, posso affermare come la maggior parte dei giovani vede il lavoro da farmacista come una semplice dispensazione di farmaci, cosa che in realtà non è. In più, molto spesso lo studio per diventare farmacista, ma soprattutto lo studio e l'impegno che vengono applicati per il continuo aggiornamento professionale, non vengono adeguatamente riconosciuti. Questo porta a uno svilimento della professione e fino a farla paragonare a un mero commerciante. Dai 1.400 ai 1.600 euro la retribuzione base di un farmacista, che oggi al tavolo nazionale per il rinnovo del contratto di categoria si sta rinegoziando al rialzo, ma il presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Trieste, Marcello Milani, rileva che il problema sta a monte nella formazione universitaria non aggiornata alle nuove esigenze della farmacia dei servizi. Nonostante a livello nazionale il piano di studi sia stato riformato, le facoltà non si sono ancora adeguate, osserva. Qualcosa a Trieste si sta muovendo, ma molto resta da fare per tornare a rendere attrattiva la professione, afferma dall'ex provincia di Udine, dove oggi mancano 70 farmacisti, il presidente dell'ordine professionale Gabriele Beltrame. La retribuzione ritenuta inadeguata e soprattutto un'organizzazione dei turni di lavoro che non si concilia con la vita privata, spiega, sono tra i principali fattori che rendono sempre più difficile per tante farmacie, soprattutto le più piccole, coprire gli organici. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Il tempo, cielo sereno su tutta la regione, queste le temperature delle 11, a Trieste e Gorizia 22 gradi e mezzo, a Udine 22, a Pordenone 21, a Forni di Sopra 17 gradi e mezzo, a Tolmezzo 17, a Piancavallo 15, a Tarvisio 14 e mezzo, a Sappada 6 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 10 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan 10, sulla costa a Lignano 20 gradi e mezzo, a Grado 19 e mezzo. Le previsioni, questo pomeriggio avremo cielo sereno con temperature massime al di sopra della norma del periodo. Domani ancora cielo sereno con temperature sempre al di sopra della media del periodo. Sulla zona montana di notte e il primo mattino sarà possibile la presenza di nubi basse e di qualche nebbia in alcune valli. La cronaca: la polizia di Trieste ha arrestato due cittadini stranieri, un kosovaro e un albanese di 31 e 32 anni, per una rapina commessa ai danni di un triestino di 46 anni. Quest'ultimo sarebbe stato aggredito alle 4 del mattino in viale 20 settembre con calci e pugni alla testa, per essere derubato di cellulare, chiavi di casa e portafogli contenente soldi e documenti. I due, riconosciuti dalla vittima e intercettati dai poliziotti, dopo essere stati sottoposti a una perquisizione personale, sono stati arrestati. 19.000 euro di prodotti contraffatti e cosmetici potenzialmente dannosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Trieste durante l'ultima barcolana. I finanzieri della compagnia hanno eseguito un controllo in un negozio del centro, focalizzando in particolare l'attenzione su alcuni prodotti cosmetici in vendita, per rilevare, tra le indicazioni descrittive riportate sulle confezioni, la presenza di eventuali sostanze vietate. I riscontri hanno permesso di rinvenire e sequestrare oltre 448 articoli: creme per il corpo e per il viso, prodotti per il contorno occhi, creme abbronzanti, bagno doccia, shampoo, profumi, eccetera, contenenti presenti principi attivi vietati dalle norme europee perché potenzialmente nocivi per la salute. Nel corso del controllo sono stati rinvenuti anche 54 articoli di bigiotteria palesemente contraffatti che riproducevano simboli riconducibili a noti brand come Chanel, Louis Vuitton, Tiffany e Cartier. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato alla Procura di Trieste per la vendita di prodotti dannosi e per la commercializzazione di articoli contraffatti. L'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia e il brand Io sono Friuli Venezia Giulia sono stati nuovamente protagonisti negli Stati Uniti. Grazie all'evento rivolto ai tour operator statunitensi e organizzato da Promoturismo FVG al ristorante Robert di New York, al quale ha partecipato tra gli altri l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Bini, impegnato in questi giorni nella missione istituzionale della regione Oltreoceano. Nell'ambito della stessa missione, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ieri sera a New York è stato insignito, insieme al ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Álvarez Bueno, della Foreign Policy Association Medal, riconoscimento assegnato dalla Foreign Policy Association a personalità che si sono distinte per l'impegno profuso nel rafforzamento delle relazioni internazionali. B-Nice Holding S.p.A., fondata nel 1993 da Lauro Buoro, ha annunciato l'acquisizione della maggioranza di Valcucina S.p.A., azienda fondata a Pordenone nel 1980 e riconosciuta a livello internazionale per la realizzazione di cucine di design. Con l'ingresso di Valcucine, la holding rafforza la propria presenza nel settore del design, che rappresenta il fulcro del suo percorso imprenditoriale da oltre 30 anni. L'operazione vede la conferma del ruolo di Friulia, che era entrata nel capitale sociale di Valcucine alla fine del 2019 e che continuerà a sostenere la crescita dell'azienda anche in futuro. Siamo felici di poter continuare ad accompagnare Valcucina nel suo percorso di sviluppo anche in futuro, ha dichiarato Federica Seganti, presidente di Friulia. Dopo oltre 4 anni di crescita in cui Valcucina ha dimostrato di poter giocare un ruolo di primo piano nel proprio settore, perseguiremo la nostra mission che da sempre ci vede al fianco delle imprese regionali più innovative e affiancheremo il socio di riferimento B-Nice nei progetti che Valcucina porterà avanti per rafforzarsi nei mercati esteri di alta gamma. Questa mattina a Pordenone la conferenza stampa dei sindacati sugli annunciati licenziamenti di 44 dipendenti dell'area commerciale dell'installazione militare di Aviano e sulle iniziative in programma nelle prossime settimane. Lavoratori della base USAF di Aviano chiamati allo sciopero lunedì 4 novembre davanti ai cancelli della base. Annunciati dall'EFES 44 licenziamenti tra i dipendenti dei servizi commerciali. Una situazione molto grave, la denuncia di Will Tux Will e Fisascat CISL, i sindacati dei lavoratori civili delle basi USA in Italia. Nel dettaglio la volontà sarebbe quella di chiudere l'ufficio paghe con la perdita di 4 persone e appaltare esternamente il servizio, mentre sono 40 le posizioni confermate come esuberi derivanti dall'accorpamento dei 2 negozi. Una pratica in realtà che contrasta con gli accordi bilaterali sulla presenza delle basi USA sul suolo italiano, con la finalità di erogare servizi e non quella di creare profitto. Secondo i sindacati non vengono nemmeno comunicati i numeri della crisi commerciale che sarebbe all'origine dei licenziamenti, impedendo un tentativo di un piano di rilancio. Ma soprattutto dopo un incontro tra le organizzazioni sindacali e il generale Clark, comandante della base, che si era detto disposto a tutelare i dipendenti, è emerso che è stato scavalcato nella decisione dei licenziamenti dell'EFES. Inaccettabile anche la proposta di incentivo all'esodo di $8,000 dopo decenni di lavoro all'interno della base di Aviano. Solidarietà all'iniziativa di protesta da parte dei lavoratori delle basi italiane di Napoli, Sigonella, Livorno e Vicenza. I 40 licenziamenti sono previsti a marzo del 2025, mentre i 4 dell'ufficio paghe a settembre, a conclusione dell'anno fiscale. E sarebbe anche incerto il destino lavorativo di altre 29 persone. Si profila uno scontro tra culture e regole molto diverse nel diritto al lavoro delle persone. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. In attesa della discussione sulla richiesta di legiferare quanto prima a livello nazionale sul tema del fine vita dignitoso, prevista nel pomeriggio, la prima parte della seduta di oggi del Consiglio regionale è stata dedicata al Question Time. A rispondere l'assessore alle infrastrutture Amirante e quello alla sanità Riccardi. Le criticità del trasporto pubblico regionale sulle tratte extraurbane nella Bassa Friulana e nel Cervinianese, ma a tenere banco nel Question Time soprattutto la questione Ovovia a Trieste. Russo del PD ha chiesto se la regione intenda finanziare l'opera anche dopo il ritiro dei fondi PNRR. Per l'assessore alle infrastrutture a Mirante non ci sono istanze formali e informali da parte del Comune di Trieste, ma ha ribadito che la realizzazione è tecnicamente ancora percorribile, risposta che ha generato malumore nel consigliere triestino che replica anche dopo tutti no la manifestazione non si ha il coraggio di dire che sia sbagliato. Morettuzzo ha chiesto lumi sulle valutazioni progettuali riguardanti il passo Monte Croce Carnico, dove si ipotizza anche la costruzione di una galleria, l'idea difesa da Mirante ma che non piace al consigliere del Patto per l'Autonomia. Si è discusso poi anche della fuga dei cervelli dalla regione su richiesta di Carli del PD, una grave sconfitta per la Rosolen, che però indica interventi sostanziali sul welfare e gli incentivi già messi in atto per l'assunzione dei giovani altamente specializzati. L'organizzazione della senologia isontina non verrà rimodulata, lo ha garantito Riccardi alla Fasiolo. Celotti PD è intervenuta sul tema del piano terra della casa circondariale di Udine, situazione fortemente degradata che ospita 50 detenuti. Riccardi garantisce ulteriori ispezioni che attueranno migliorie, poi ha sottolineato che la politica comune debba intervenire fortemente per accelerare un miglioramento della situazione. Bullian, Patto per l'Autonomia, ha poi richiesto quante sono state le richieste per il suicidio assistito. Dal 2020 sono stati 2 casi, ha replicato Riccardi. In nessun dei 2 è stato necessario l'intervento delle autorità giudiziarie. Dopo il 2020 le richieste sono state 3 alla Sugi, nessuna per quella del Friuli occidentale. Trieste, Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Concorso a Udine per 5 posti di funzionario amministrativo contabile in comune. Gli iscritti erano oltre 400, si sono presentati in meno di 300. Il comune di Udine ha bisogno di personale per rimpiazzare chi nel frattempo è andato in pensione e i concorsi non scarseggiano. Oggi alla fiera di Udine porte aperte per i 463 che si erano iscritti alla selezione per 5 posti di funzionario amministrativo contabile. Alla fine si sono presentati in meno di 300. Partecipano per lo più persone che sono già all'interno del mondo dell'impiego pubblico e già dunque conoscono la macchina. La categoria offerta dal bando, la D, infatti rappresenta un salto di carriera per quei dipendenti pubblici che si trovano nelle categorie della C in giù e sono laureati. Sono già a C del comune di Udine qui. Quindi si cerca di migliorare il livello? Se possibile sì, intanto un po' di esperienza insomma. Anch'io faccio un tentativo e vediamo com'è, tanto, dopo tanto tempo che non facevo concorsi quindi. Un po' come tornare al passato. Esatto. Ma c'è ancora voglia di posto pubblico secondo lei? Credo di sì, da quello che si vede sì, per un discorso di garanzie o comunque di stabilità. Intanto è stato pubblicato un nuovo bando rivolto anche ai diplomati per 17 istruttori amministrativi contabili per il comune di Udine da assegnare a 7 servizi diversi dell'amministrazione, tra cui l'ufficio demografico, in particolare sofferenza. In questo caso la graduatoria potrà essere concessa anche ai comuni di Codroipo e Tavagnacco per lo scorrimento, una volta soddisfatte le esigenze di Udine. La scadenza del bando è fissata al 22 novembre. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Nuova esercitazione a Gorizia per massimizzare la collaborazione tra i diversi attori sul campo in caso di incidenti. Sono state simulate 2 diverse circostanze, un sinistro con feriti riversi sulla strada e uno con politraumatizzati bloccati all'interno di un'auto. Le circostanze che caratterizzano un incidente stradale sono sempre imprevedibili e proprio per questo una codificazione delle metodologie di intervento è indispensabile per strutturare efficacemente il soccorso, ma è anche necessario che le diverse professionalità che formano un team riconoscano inequivocabilmente i rispettivi ambiti operativi, parlino lo stesso linguaggio tecnico e siano strutturate su una chiara linea di flusso informativo e di comando, anche se appartengono a diversi corpi dello Stato. Il ciclo di esercitazioni congiunte a Gorizia coinvolge Vigili del Fuoco, 118 Asugi, Croce Rossa, Croce Verde Goriziana e Sogit Grado, che spesso si trovano a lavorare in equip. Nell'ultimo incontro 2 tipologie di incidente, la prima con feriti riversi sulla strada, la seconda con politraumatizzati ingabbiati nel veicolo. Nell'ultimo anno a Trieste sono state realizzate 5 sessioni formative che hanno coinvolto 50 vigili del fuoco e 50 operatori sanitari. A Gorizia invece il ciclo di incontri vede 40 vigili del fuoco e 40 sanitari. Andrea Brandolin, capo reparto dei Vigili del Fuoco di Gorizia. Fattore tempo importantissimo, perché anche pochi secondi senza indecisione possono fare la differenza sulla vita umana negli incidenti stradali. Fondamentale queste giornate per migliorare la comunicazione fra noi e il personale sanitario. Con le nuove tecniche di approccio su incidenti stradali si tende a creare dei varchi, un varco tecnico e un varco sanitario, per poter introdurre subito personale infermieristico all'interno dell'autovettura. Quindi con il soccorritore dargli subito un supporto medico, psicologico, senza averlo già estricato da autovettura coinvolta. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Predire con anticipo gli eventi meteorologici estremi è la nuova sfida di chi si occupa di previsioni del tempo. Ne abbiamo parlato questa mattina a Buongiorno Regione. La tecnologia al servizio della meteorologia, il servizio OSMER dell'ARPA regionale, che compie 25 anni, studia i modelli matematici, ma non solo. Il futuro, con investimenti che saranno necessari nei prossimi anni, e utilizzare gli strumenti più innovativi soprattutto per predire con un certo anticipo gli eventi estremi come grandinate, tempeste e mareggiate. Arturo Puccillo, dirigente regionale ARPA. A noi aiutano perché siamo una regione piccola con fenomeni molto intensi anche mediamente rispetto alle medie europee. Abbiamo bisogno della tecnologia, come ad esempio intelligenza artificiale o tecniche per ricondurre i modelli a più larga scala proprio sul nostro specifico, per riuscire a intercettare anche gli eventi estremi che si verificano sulla nostra regione. Di servizi meteo privati sui cellulari o sui siti ce ne sono a decine. Quanto sono affidabili sul territorio e soprattutto c'è una certa competizione? Non la chiamerei competizione, direi piuttosto concorrenza in senso positivo. Noi siamo un servizio pubblico, eroghiamo un servizio pubblico, abbiamo un target ben preciso anche nel ambito della protezione civile in questo caso. La concorrenza invece serve per migliorarsi, no? Possiamo confrontare i prodotti e le performance anche degli altri per migliorare quello che è il nostro target e la qualità dei nostri prodotti. Gli altri meteo ogni tanto si sbilanciano su previsioni a lunghissimo termine. Esiste davvero la possibilità di vedere in anticipo cosa succederà tra un mese? Bisogna prenderle diversamente rispetto alle previsioni a breve e medio termine. Si tratta di ipotesi di scenario calcolate dai grossi centri di calcolo anche a livello globale, a livello mondiale, che però sono soggette a variazioni anche significative man mano che passa il tempo. Ci danno un'idea di cosa aspettarci in termini di anomalie rispetto a una temperatura. Farà un po' più caldo i prossimi mesi, un po' più freddo, più piovoso, meno piovoso. Non sono però previsioni dettagliate naturalmente. Palmanova, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Si disputeranno a Meduno i campionati mondiali master di corsa in montagna del 2025, una notizia già nota da mesi ma che ora è ufficiale dopo la firma del contratto con la Federazione Internazionale di Corsa in Montagna. Alla cerimonia della firma, oltre al presidente della federazione Tomos Arf e a quello del comitato organizzatore Paolo Borsoi, erano presenti i sindaci del territorio e il presidente della comunità montagna delle Prealpi orientali Giuliano Cescutti. I mondiali master di corsa in montagna non saranno un evento solo medunese, ma coinvolgeranno e avranno ricadute su tutto il territorio circostante, ha detto Borsoi. Per questo ci aspettiamo che tutti i soggetti coinvolti diventino parte attiva nel far conoscere questa zona a livello internazionale. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Daniele Lettigi. In regia per la parte tecnica Walter Vidonis, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.